America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Natale si avvicina. We have children from every corner of Palestine. And every day there's more. My goal is to educate these kids and give them hope. Miral, how nice to see you. Don't worry about her. She'll be fine. Miral, you are late. Some of you might have heard that there is an uprising, what has been called the Intifada. Please stand up straight. E dunque, con il Natale ormai alle porte, voglio proporvi questo film Miral di Julian Schnabel, il grande artista americano, tratto dal libro scritto da Rula Gebral, che si chiama appunto Miral. Perché vi propongo questo film, questo libro? Beh, perché è ambientato in Palestina, in Terra Santa, ma anche perché proprio qui a New York mi è capitato di trovarmi in una situazione in cui c'era in qualche modo un simbolo molto propizio per il Natale, un simbolo per il dialogo, per la pace. Sono capitato a casa di Adam Lindman, il quale è sposato con Malia Dayan, la nipote del generale Moshe Dayan, il generale che ha vinto la guerra dei sei giorni, un simbolo stesso della resistenza dello Stato ebraico. Ebbene, questa coppia ha fatto una festa, una grande festa, in onore di Rula Gebral, una palestinese musulmana, del suo libro e del film di Julian Schnabel, che a sua volta è un ebreo newyorkese con una madre che addirittura nel 48 andò in Israele per partecipare alla Dassah, cioè al movimento di massa per cercare di costituire lo Stato israeliano. Ecco, in questa serata newyorkese sono confluiti in qualche modo tutti quei valori molto personali, molto individuali, su cui forse la speranza di poter costruire questo dialogo, questa pace che sembra essere sempre vicina e poi non arriva mai, ecco, improvvisamente diventa possibile attraverso questi dialoghi più privati. E voglio farvi ascoltare delle voci, delle testimonianze che ho raccolto in questo party, perché vi danno l'idea di come l'atmosfera era davvero rilassata. Rula, buonasera. Buonasera. Allora, intanto il party è per il film che è appena uscito, è vero? Il party per il libro che è appena uscito, perché il film esce a marzo. Siamo nella casa di Amalia Dayan, che è la nipote. La nipote di Moshe Dayan, che è stato un primo ministro israeliano importantissimo. Esatto, è il generale che ha vinto la guerra dei sei giorni. E allora devo dire, per me, io seguo, come sai, spesso i vertici, sono stato a Sharm el Sheikh, sono stato a Napoli, sono stato in vari viaggi in Medio Oriente a seguire la politica dall'alto. E questo tuo libro e questo film mi ha colpito perché? Beh, perché è una storia di una così, di questo conflitto che abbiamo visto in Medio Oriente, vista in un modo molto intimo e personale. E mi colpisce che siamo nella stessa casa, una israeliana palestinese come te, che parla un italiano perfetto, e anche Amalia, che non sa niente. Che è un'israeliana doc che non sa niente che stiamo facendo questa cosa, per cui adesso la avviciniamo. Sì. So tell me, Amalia, what do you feel about this movie? You said something before that you felt when you saw this movie. You were worried, you didn't know what this movie was about. I was very worried about it, and what am I going to tell Rula, and what am I going to say? But I love the movie, and it really, really, really touched my heart on so many levels. And the personal story and the political story. Avete sentito la voce di Amalia Dayan, casa sua, dove c'è stata questa cena. Eravamo forse una trentina, una quarantina di persone. E Amalia racconta di essere stata molto tesa nel momento in cui andava a vedere questo film per la prima volta, perché lei è israeliana e temeva che questa sua amica, con cui aveva condiviso gioie e dolori qualche anno, erano diventate molto molto amiche, potesse aver fatto un libro e dunque poi un film tradotto in film da Julian Schnabel anti-israeliano, un film duro, un film di rivendicazione palestinese. Non è stato così, ha detto. Nel momento in cui questo film è cominciato, ho cominciato a piangere, perché ho rivisto posti familiari, ho visto l'altra faccia della barricata, che poi non lo è, perché poi siamo tutti dalla stessa parte nel momento in cui dobbiamo raggiungere la pace. Dunque mi sono sentita ancora più vicina di quello che poteva essere a Rula e a Julian, che comunque resta un amico di sempre. Sentiamo Adam Lindemann, il marito di Amalia. I was nervous about it because I don't really want to be a great supporter and a participant in something that's anti-Israeli, since I'm married to an Israeli. But the complex nature of Rula's life story blows me away, and I think the book and the film that has come of it really shows the complex nature of what's actually really going on with the people who are living there, and gives us some hope that we can move forward from here in the right way. Ecco, Adam anche lui dice che in qualche modo era preoccupato, perché la tendenza è quella di immaginarsi che il film possa essere un così, diciamo, anti-israeliano. Invece poi anche lui si è rilassato nel momento in cui ha sentito quanto sua moglie partecipasse a questo film fin dalle primissime battute. Apro qui una parentesi. Perché? Perché le critiche a questo film non sono state positive. È vero che forse ci sono degli elementi di discontinuità in questo film, ma la parte importante è quella che riguarda proprio questo messaggio di così creatività verso il dialogo e verso la pace. Sentiamo Julian Schnabel. My goal in making this movie was to make these people safe, because the way that things are going doesn't make them safe. To show that a Jewish person could understand a Palestinian person might make other Muslim people think, well, maybe Jewish people are not just soldiers. Julian Schnabel, grande artista, pirotecnico, nell'intervista che gli ho fatto ha parlato di tutto. E un film conferma per il dialogo, perché la gente in Israele e in Palestina sia più sicura, ed anche un film, ha detto, per far vedere che gli israeliani non sono soltanto dei soldati, ma sono delle persone che vivono una vita assolutamente normale, che hanno i problemi di tutti, che devono certamente difendersi da aggressioni terroristiche, da situazioni difficili, ma se ci si blocca su dei punti dai quali non ci si riesce a muovere, non si andrà mai avanti. Parlare con degli amici, dice Schnabel, è una cosa fondamentale, e parlare fra noi, e ricorda un vecchio libro di Jean-Michel Basquiat, che è un grande artista che è morto, in cui di nuovo si ripercorreva la necessità del dialogo. E dunque conclude: questa sera in questa casa abbiamo dialogato un po' tutti, parlando di questo messaggio che, dice, ritengo sia davvero di speranza. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, direi in sintonia col tema pace, basta con la guerra, Happy Christmas di John Lennon, chiamata anche The War Is Over. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.